perché c'hanno una squadra in questo paesetto, no? E allora li hanno sfidati, erano spesati di tutto e sono andati, capito? A calcio, a calcio. Ho preso un ascio allora. E allora, la piccola gioca a palla, da, si può dire da neonata. Quanti anni ha se posso? Adesso ne ha 30, così 30, e gioca in una squadra del Guspini. Ma quindi a livello anche professionistico? Ha giocato anche alla Torres, a Porto Torres, alla squadra di Porto Torres, alla squadra della Maddalena, varie squadre, là, perché lì si stufa e cambia squadra quando non gli piace l'andamento. Ah, Simona! Ah! Simona si chiama per caso! No, Chica, Salvatorica, Bassottina No, perché pensavo che fosse Simone, Simonetta. No, ma di dove è Simonetta? Di Sassari. Ah, di Sassari, forse che la conosca. Come si chiama Simona Spissu, quella che conosci? Solinas. Solina, tu non so, forse che la conosca, perché ogni tanto qua me ne porta qualche graffetta, tutte amiche, capito, per giocare la palla. Oggi è una giornata di fare sardine e zerri. Lo so, vabbè, oggi, perché dentro la settimana, Mara, magari... Domani no, perché domani ci sarà l'avanzo di venerdì e di sabato al mercato, ma martedì già è tra fresco il pesce al mercato, si può fare anche martedì una bella grigliata di sardine e di zirri. Allora io giovedì in campagna abbiamo preso sardine, mendula e due orate. È buona, è buona. No, io ieri ho preso le cozze, me le ho fatte bellissime, belle, piene. Oggi faccio alla griglia un po' di pancetta condita con il rosmarino, l'ho messa al sirina, da poi me la ruscio. Allora, da poco, un montagnino. Mi ha fatto assaggiare la pancetta con la cosa, il pane grattugiato. Grazie, una reggia. La facciamo anche noi qua, è buona, sì, aspetta se è buona, è impanata. Ma arrucca la mucchizzuia, non c'è altro da dire. Arrossa la morte sua. È vero, poi poco a poco di vino, birra al nastro. Già lo credo. Oggi come primo spaghetti col piselli, col sugo ai piselli, cozze, pancetta, verdura e trullalla. Poi pennichella. No, negativo, io non me ne faccio pennichella, no, non ci sono abituata a coricarmi dopo pranzo. Mi guardo il televisore che fanno vedere dei documentari, oggi ci dovrebbe essere a Rai 1, documentari del mare, e già mi piacciono. Sì, Max, sul 52, lì sì che è bel programma. Se no io me li cerco tutti, lo giro su tutti i canali, dopo trovo che ci sono questi programmi così del mare, capito? Anche delle campagne, delle montagne, fanno vedere le cose che cucinano dei posti, no? A me mi piacciono e me le guardo. Poi mi prendo anche le ricette che dicono. Spesso dicono anche ricette, capito? E poi già me le faccio in casa. No, è vero, uno più di più. E anche se magari si fa vede come tutti uno poi di qualche cosa cerca di fare. Giusto, giusto. Grazie, prima al telefono.